dare una definizione del concetto di regno di Dio, prendete i fogli che vi abbiamo dato. A me è piaciuta moltissimo questa definizione. In alto, a pagina 58, quella in alto, ad un certo momento il regno di Dio viene definito come offerta della possibilità di una vita buona, e io aggiungerei bella e felice per far contento Don Giorgis, secondo l'intenzione di Dio, messa a disposizione già qui e ora di tutti senza eccezioni e senza discriminazioni. Secondo me questa è una definizione del regno di Dio favolosa, pubblicizzatela più non posso citando chi l'ha inventata. E poi l'altro io credo che non ho mai sentito parlare di sensus regni. Di? Sensus regni. Ah! Cioè, sensus fidei, Papa Francesco ne parla a non finire, ma di sensus regni è la prima volta che ne sento parlare da Dio. Non era una domanda, era solo una sottolineatura di due aspetti che mi hanno colpito. Ho visto che qui sono arrivate delle domande scritte, quindi... Un signore che... No. Era un saluto a Piero. Sono arrivato Piero. Ciao. Un segnale di fumo. Sì. Era anche quello. Tutto. C'era anche il fumo, sì. L'abbiamo sentito. Non dicevo, avete avuto la buona volontà di mettere giù alcune domande scritte. Non le ho ancora lette, quindi stavo guardando se c'era in qualche maniera un ordine da privilegiare. Ma potremmo iniziare da qui. Leggo io, perché essendo ricevuto il testo. Riprendendo un'idea, solo vivendo con Gesù possiamo vivere come Lui. Al di là dell'intuizione, come si può vedere meglio questo? Che cosa vuol dire vivere con? Forse mantenere il contatto con la parola che troviamo nel Vangelo, o anche con una preghiera che sia forse soprattutto contemplazione di Gesù crocifisso e risorto? Allora, parto da qui perché poi ci sono anche altre domande sulla preghiera, ma questo mi sembra un punto d'avvio interessante. Ecco, vivere con Gesù per poter vivere come Gesù. Indubbiamente qui è in gioco, a mio avviso, la possibilità di riconoscere la comunità ecclesiale come uno spazio aperto, uno spazio accogliente, cioè uno spazio in cui l'unica possibilità offerta non è quella di ritrovarsi nella condizione del discepolo, oppure sei fuori, ma una visione di chiesa che riscopra in qualche modo, dico da noi in Occidente, perché se si getta lo sguardo poi un po' fuori dai nostri confini, ad esempio in riferimento alle esperienze di molte realtà che noi chiamiamo di missione, no? Se è ancora opportuno usare questa formula, ecco lì ciò che sto per dire è qualcosa che molto spesso viene già sperimentato e fa parte appunto di qualcosa di vissuto, no? Mentre invece noi dobbiamo, qui in Occidente, dobbiamo impegnarci a riscoprire che cosa? Appunto il fatto che nella Chiesa coloro che si riconoscono nell'identità del discepolo testimone, nel senso che ho detto appunto prima nella relazione, sono lì proprio per mettersi a servizio della possibilità, io dico, di aprire la casa ecclesiale e quindi di offrire anche dei percorsi, no? Capaci di accogliere chi immediatamente potrebbe essere non interessato a diventare a sua volta, no, discepolo testimone, ma avverte invece un fascino, un'attrazione, un interesse per la figura di Gesù, per il modo con cui Gesù ci permette di accedere alla realtà di Dio, no? Ecco, noi purtroppo quasi manchiamo di opportunità di questo genere, no? Perché se tu varchi le soglie, diciamo così, della comunità ecclesiale, l'unica strada che ti viene posta davanti è quella della sequela testimoniale, cioè a cominciare appunto dal fatto che tutta la catechesi è di per sé concepita come una iniziazione appunto al discepolato, alla sequela. Non a caso è una iniziazione tutta incentrata di per sé sui sacramenti. Il battesimo si dà già per scontato perché appunto lo ricevi da infante, ma poi da lì in poi, ecco, la catechesi è ricondotta sostanzialmente ad una iniziazione ai sacramenti, no? Eucaristia, cresima, eccetera. Quindi sostanzialmente qui in Occidente in molti casi siamo davanti ad una chiesa che non avverte più l'esigenza di aprire questi spazi di ospitalità in nome dell'Evangelo. Se tu vuoi entrare dentro, vuoi varcare la soglia della casa ecclesiale, devi incasellarti, diciamo così, nella forma, nel format, nella figura del discepolo testimone. Non c'è altro modo di configurare la fede teologale, cioè la fede in Dio attraverso Gesù Cristo. Mentre invece, ecco, qui sarebbe proprio in gioco la possibilità di intravedere, no, questi percorsi alternativi. Io credo che, ad esempio, una via privilegiata da percorrere sia quella che ad esempio voi come associazione vivete, cioè l'iniziazione e la familiarizzazione con la scrittura, con la parola di Dio. Se ci pensiamo, per accedere pienamente ad una liturgia della parola non è neppure necessario essere battezzati. Anche un non battezzato potrebbe partecipare in maniera piena ad una liturgia della parola. Non così, ad esempio, in una liturgia eucaristica. Perché anche dalle gentile, sì, in qualche maniera. Oppure la spiritualità di Charles de Foucault. Sì, appunto, sono tutte intuizioni che vanno in quella direzione lì, no? E dicevo, per accedere a una teologia eucaristica, invece, per accedervi pienamente, tu devi essere battezzato. Non c'è appunto, non si scampa. Ma perché? Perché appunto di per sé i sacramenti sono i sacramenti della sequela testimoniale. Sono i sacramenti che ti introducono e ti configurano appunto nell'identità del discepolo testimone. E quindi in quella forma specifica di rapporto, no, con Gesù, con Dio attraverso Gesù Cristo. Mentre invece nel caso appunto dell'accesso alla Bibbia, questo non è richiesto. Ecco perché tutti quei percorsi che sottolineano la centralità del riferimento alla scrittura sono percorsi per principio ospitali, cioè sono percorsi in cui si può accedere in totalità senza particolari condizioni preliminari, ecco, se non quella appunto di una del percepire, dell'avvertire un'attrazione, no? Un interesse nel senso profondo del termine, per ciò che il rapporto con la Bibbia, per quella realtà che il rapporto con la Bibbia mi permette di cogliere, di riconoscere, no? Che appunto è la realtà dell'iniziativa di Dio nella storia della salvezza, in particolare nella vicenda di Gesù, no? Ecco, quindi questa a mio avviso dovrebbe essere una via privilegiata di ospitalità ecclesiale, no? Incentrata appunto sulla lettura della Bibbia per arrivare ad un ascolto della parola di Dio, perché le due cose non sono, come ben sapete, così immediatamente collegate. Io posso leggere la Bibbia, come leggo qualunque libro, testo religioso, no? O comunque anche come un romanzo, perché ci sono pagine della Bibbia che fanno concorrenza a qualunque classico, no? E però fermarmi lì, fermarmi a questo livello, no? Invece è appunto un'altra questione se io mi dispongo a leggere la scrittura per percepire che sono raggiunto attraverso quello scritto da una parola di Dio, che è rivolta a me personalmente. Questo ovviamente richiede un'educazione alla familiarizzazione con la parola di Dio. Quindi ognuno individualmente potrebbe già accedere alla Bibbia con la propria piccola ignoranza di chi rimane incasellato nel rito che a partire dal battesimo fino al matrimonio, chi ha avuto la fortuna di aver seguito questo. No, per dire, quindi al di là della preparazione del catechismo, perché catechesi mi viene difficile. C'entra la catechesi col catechismo, sì? Sì, insomma. Sì? Sì. Ecco, al di là di questo poi ci si ferma, io vedo i ragazzi delle parrocchie, finito questa cosa un po' d'obbligo, poi, no? E così l'essere umano, così noi, tranne quando, grazie alla volontà di qualcuno, al succedere a qualcosa di più alto, in questo caso il Don Giorgis, così, si familiarizza di nuovo con l'interpretazione della parola di Dio, della Bibbia, no? Però se no non c'è niente, non c'è niente, perché io oggi sono venuta qua, poi perdo tutto, se non vado poi, cioè, so che c'è Don Guido di riferimento, che ho delle possibilità di raggiungerlo, così. Se no, la mia povertà di fede non mi consente di... Ma è interessante il fatto che ognuno di noi può accedere invece, cosa hai appena detto, alla parola della Bibbia, sapendo che è stata scritta anche per l'uomo che non sa, no? Quindi porsi in ascolto, si riesce da soli a trovare un'interpretazione. Il teologo che citavo stamattina, Christoph Theobald, non a caso parla di un fenomeno che si è verificato, diciamo, nella nostra epoca, cioè quello di un accesso, lui lo chiama un accesso democratico alla Bibbia. Cioè, mentre prima del Concilio Vaticano II l'accesso alla Bibbia era rigidamente regolato dall'approvazione, ad esempio, del parroco, no? Per sé, soprattutto ad esempio l'Antico Testamento, non se ne poteva fare oggetto di lettura personale senza un'esplicita autorizzazione del proprio parroco, no? Cioè, tutto doveva passare attraverso il riferimento all'autorità ecclesiastica, no? Al ministero ordinato. Dopo il Vaticano II appunto, si è verificato questo fenomeno di democratizzazione dell'accesso alla Bibbia. Idealmente ciascuno è nelle condizioni di prendere in mano questo libro, no? E di leggerlo, di interpretarlo. È chiaro che qui c'è una responsabilità della comunità ecclesiale, no? La quale dovrebbe sentirsi responsabilizzata appunto nel come dire, partecipare nel comunicare i criteri che ti permettono un accostamento serio, autentico alla scrittura, no? Perché è chiaro che un uso puramente soggettivistico, no? Di quelli che aprono la Bibbia a caso, lo leggono e poi dicono ecco Dio mi ha detto questo, è una pratica che rischia di scadere nel fondamentalismo, no? Sì, nel fondamentalismo, sì, perché sì. Appunto la parola di Dio non si risolve nello sta scritto. Ecco, questo sì, è c'era, e, come si chiama, il presidente degli Stati Uniti Bush, che tutte le mattine leggeva i salmi, no? E poi se ne faceva avanti e diceva io ho detto, Dio ha detto questo, no? E strumentalizzava le parole a seconda della necessità. Quello è, no? È tipico di una certa ala evangelicale, sì, del cattolicesimo, del cristianesimo, soprattutto statunitense, sì, sì, sì. Che ha questo approccio che rischia di essere tendenzialmente fondamentalista. Certo. Perché appunto, essendo un testo scritto in epoche remote, è chiaro che richiede dei criteri per poter essere interpretato adeguatamente. E quindi lo dicevo con qualcuno nell'intervallo precedente, con cui stavamo appunto parlando del rinnovamento della catechesi, no? Che si è tentato alla fine degli anni 70, inizio anni 80. A mio avviso, qual è stato il grande peccato originale di questo rinnovamento della catechesi, che poi a mio avviso ha decretato anche il sostanziale fallimento, se non comunque uno scarso successo di questo rinnovamento? Il peccato originale è stato quello di non prendere sul serio ciò che era ed è scritto nel documento base per il rinnovamento della catechesi, un testo degli anni 70 scritto da un sacerdote della diocesi di Alba, Bussi, Monsignor Bussi, è lui che è stato il redattore di quel documento. In un passaggio di quel documento si diceva, si enunciava un principio che a mio avviso è davvero fondamentale, cioè si diceva il libro della catechesi è la Bibbia, i catechismi sono sussidi per la comprensione appunto della Bibbia stessa. Ecco, questo è stato fondamentalmente tradito, non corrisposto dal rinnovamento della catechesi. Ancora oggi la nostra catechesi non ha come primo obiettivo quello di abilitare ad un accostamento appunto serio e consapevole al libro biblico, alla scrittura, no? E quindi i catechismi sono rimasti i libri della catechesi, la Bibbia è rimasta tendenzialmente chiusa, se non citata dai catechismi, e poi adesso sappiamo come è andata a finire, cioè che neanche più i catechismi sono i libri della catechesi, ma i sussidi, i cosiddetti sussidi, no? Quindi, come dire, c'è stato un progressivo allontanamento dalla fonte che è chiaro che non poteva e non può produrre niente di serio, di significativo. Ecco, invece, una catechesi che riparta da questo principio è una catechesi che intende un'iniziazione alla fede come fede teologale. E quindi questo non può non implicare un'iniziazione all'accostamento appunto alla scrittura, no? E questo dovrebbe essere il lavoro principale, a mio avviso, della comunità ecclesiale, no? Mettere nelle condizioni di prendere in mano il libro biblico e operare questo passaggio, no, dalla lettura del testo all'ascolto della parola. Ecco, una chiesa che si muovesse in questa direzione, a mio avviso, farebbe dei notevoli passi in avanti, proprio nella direzione di una ospitalità. Un'altra via di ospitalità, a mio avviso, sarebbe la valorizzazione evangelica della forma di solidarietà con il bisogno del prossimo, dell'altro. Cioè, è qui, o prendiamo sul serio Matteo 25, o non lo prendiamo sul serio. Cioè, Matteo 25 dice chiaramente, appunto, questa parabola, no, che Gesù annuncia, quando avrete fatto queste cose, no, l'avrete fatto a me, no? Ero in carcere, siete venuti a trovarmi, ero malato, mi avete visitato, eccetera, ero affamato, mi avete nutrito, ecco, mi avete nutrito, cioè, quindi vuol dire che attraverso quel gesto di solidarietà con il bisogno del prossimo, io instauro una relazione reale, reale con Gesù Cristo. E quindi rimango in Lui. Noi abbiamo ridotto tutto ad un volontariato più o meno filantropico, no? No, quella roba lì è volontariato filantropico, quindi non c'entra con la fede, sì, per carità, appunto, te ne occupi, certamente è una cosa meritoria, però non è qualcosa che rientra in ciò che tu sei chiamato a realizzare proprio in vista di concretizzare un'esperienza di relazione con Gesù Cristo. No? E invece, appunto, alla luce di Matteo 25, ma alla luce di, complessivamente, ecco, dell'approccio del Nuovo Testamento, pensiamo alla prima lettera di Giovanni, non puoi amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi, ecco, cioè è la lettera di Giacomo sulle opere, no? Ecco, è chiaro lì che un rapporto realistico con Gesù e con il suo dono di salvezza lo si ha attraverso i gesti di solidarietà, no? Con il bisogno, con l'attesa dell'altro. E anche questo è una via ampiamente ospitale. Cioè, io non devo necessariamente essere battezzato per vivere questo tipo di attività, no? Per instaurare questo tipo di relazione. E appunto, se la vivo in una prospettiva evangelica, quel gesto diventa per me una possibilità di incontro, ripeto, realistico, non semplicemente immaginato o poetico, con Gesù Cristo, il suo dono di salvezza. Ecco, come dire, sono solo accenni, no? Ma che ci fanno intravedere quanto lavoro ci sarebbe da fare, ecco, per rinnovare il nostro tessuto ecclesiale. E qui mi ricollego ad un'altra domanda che ho visto qui, che sembra più specifica, ma in realtà è un aspetto che tira dietro tutto, secondo me. La domanda è questa: nella Chiesa italiana ci sono sempre meno sacerdoti. Cambiare o morire? Come si vive dal di dentro questa situazione? Quali prospettive? Ecco, qui appunto si pone un problema particolare. La scarsità numerica di presbiteri, di ministri ordinati. E questo certamente è un aspetto particolare, ma come dicevo, si tira dietro la necessità di, appunto, di cambiare, cioè, come dicevo prima, di riconfigurare uno stile della comunità cristiana, perché una chiesa che è tutta incentrata sul riferimento al prete è una chiesa inevitabilmente ecclesiocentrica, no? Cioè è appunto coerente con ciò che dicevo prima relativamente al fatto che la nostra esperienza di comunità ecclesiale è un'esperienza che ha, come dire, ristretto, se non addirittura eliminato, tutta questa dimensione di ospitalità. Perché appunto il ministero presbiterale è un ministero che è rivolto all'interno della Chiesa stessa, no? È un ministero che certamente ha la sua funzione. Cioè, c'è corrente. Ah, sì. Si trovi in un posto più salutare. Lo dicevo, il ministero del prete, del vescovo, insomma, è un ministero che ha un senso proprio come, come dire, figura di riferimento per un'abilitazione alla testimonianza. Però la figura del prete è appunto del tutto relativa e che è da relativizzare rispetto ai laici. Cioè, io sono sempre più convinto che dobbiamo smettere di ritenere che la figura del ministero ordinato, prete, vescovi, mettiamoci anche i diaconi, e analogicamente la figura della vita religiosa, frati, suore, siano le figure esemplari per l'attuazione dell'esperienza della fede cristiana. Mentre i laici, no, sarebbero appunto, che cosa? Non preti e non religiosi. Cioè, capite? I preti sono, e i religiosi sarebbero quelli che dicono positivamente una forma della fede. I laici sono quelli che, insomma, possono provare a farcela, ma sono anzitutto una negazione. Cioè, non sono preti e non sono religiosi. E fondamentalmente sono di serie B. Ecco. Quindi, ancora oggi, quando noi diciamo la Chiesa, la maggior parte delle persone cosa pensa? Ai laici? No. Pensa al Papa, ai vescovi, ai preti, alle suore, ai frati. Quella è la Chiesa. Ma perché appunto c'è questo immaginario ecclesiocentrico che si è innestato profondamente nella nostra sensibilità, nel nostro immaginario. E ecco, scardinare questo immaginario è possibile nella misura in cui, a mio avviso, si restituisce una centralità ai laici. Cioè, il battezzato è un laico fino a prova contraria. Io non ho mai visto uno battezzato che è prete, ecco, o è religioso. Cioè, il frutto, l'esito del battesimo è appunto la configurazione di un laico, un Christi fideles, fidelis laicus. E quindi quella è la forma fondamentale, quella è la forma fondamentale, perché è la forma battesimale, a cui di per sé nulla si aggiunge di sostanziale, perché appunto diventare prete, diventare suora, diventare sposato, appunto, eccetera, sono tutte modalità di vivere in modo testimoniale la fede battesimale, fondamentalmente. Cosa vorrebbe dire riscoprire la centralità del laico? Vorrebbe dire prendere coscienza del fatto che lo spazio vitale della Chiesa, per usare l'immagine di questa mattina, è la pianura, non è il cenacolo. Cioè, il laico è quello che è di per sé immerso nella pianura. La vita del laico è la vita che appunto si occupa degli aspetti fondamentali del vivere, no? Con cui naturalmente hanno a che fare anche i preti, i frati, le suore, cioè non è che questi vivono chissà dove, no? Però la figura del laico è proprio quella che si gioca lì la coerenza della sua fede, no? Del suo rapporto con Cristo. E allora proprio per questo io dico quella è la forma fondamentale. Perché il Vangelo esiste esattamente per questo, cioè entrare nel regno di Dio è esattamente questo, lo citava prima come dire, generosamente dal mio libro Andrea, no? La possibilità di una vita buona e quindi anche bella e felice, no? Attraverso l'incontro con Gesù Cristo e il rapporto con Dio che questo rincontro rende possibile, da giocarsi nelle situazioni del quotidiano, nella concretezza del quotidiano. Quella è la forma fondamentale della fede. Siamo noi preti che dobbiamo giustificarci nella nostra esistenza rispetto a quella forma fondamentale. Cioè, che ci stiamo a fare noi, non che ci state a fare voi. Perché voi ci siete perché il battezzato è il laico. No, non è da giustificare. Appunto, sono io come presbitero che devo giustificare il fatto che do questa configurazione alla mia fede battesimale come servizio nei confronti, appunto, come dire, della cura della fede della comunità, dell'altro, no? Oppure appunto il frate o la suora che vivono in quella maniera, no, particolare la fedeltà all'Evangelo, ma appunto è particolare rispetto ad una modalità fondamentale che è quella del laico. Ora, una chiesa che metta al centro la figura del laico è una chiesa che diventa subito ospitale, perché appunto è la chiesa proiettata sulla pianura, non proiettata sul cenacolo. Una chiesa che mette al centro il ministero ordinato e la vita religiosa è una chiesa incentrata sul cenacolo, no? Che finisce di faticare molto a recuperare il rapporto con la pianura. Sembra che mi sembra di vedere uno squilibrio terribile fra quello che già dicevi, sembra che tutto si debba svolgere, ruotare intorno ai sacramenti. Certo. Come se Gesù fosse venuto per darci dei sacramenti e noi dobbiamo curarci di fare questi benedetti sacramenti, vabbè, il battesimo lo facciamo solo una volta, gli altri, e tutto, c'è cioè uno che fa quello, si è fatto, finito, basta, non, come se tutto dovesse, ma questo non è assolutamente assurdo. Il problema è esattamente questa identificazione della evangelizzazione con la sacramentalizzazione. Come sembra che... Come dire, che è spiegabile in quella prospettiva ecclesiocentrica che dicevo prima, perché indubbiamente, come accennavo nella relazione di questa mattina, quando ad esempio Marco racconta la chiamata dei dodici, appunto dice ne scelse dodici, il testo greco usa un verbo forte che è quello della creazione, ne creò dodici, perché stessero con lui e per mandarli appunto a predicare e a riproporre i gesti, i segni della vicinanza del regno. Naturalmente noi quando leggiamo queste pagine, anche in questo caso, a cosa pensiamo anzitutto? Ai vescovi, ai preti, no? Cioè, i dodici sono fondamentalmente identificati subito con il ministero ordinato, con il clero, con i religiosi, per analogia, no? Mentre invece i dodici sono la matrice della sequela testimoniale, quindi sono la matrice di tutti, anche dei laici, anzi, se sta quello che dicevo prima di tutto dei laici, no? Ora, quello stare con lui, concretamente, che è la condizione di un cammino di abilitazione alla testimonianza, quello stare con lui concretamente si attua in maniera particolare attraverso l'attuazione sacramentale. No? Ecco perché i sacramenti sono certamente costitutivi dell'identità del discepolo testimone, ma non sono la condizione necessaria per essere di Cristo, questo è il punto. Cioè, sono la condizione necessaria per essere discepolo testimone di Cristo, ma non in maniera generale per essere di Cristo. Ripeto, questa è una consapevolezza che almeno in Occidente abbiamo progressivamente perso. E tutto quello che dicevo prima potrebbe essere una via, una strada da percorrere per riguadagnare una consapevolezza diversa. No? Forse c'era. Sì, volevo dire, adesso mi è venuto in mente un'altra cosa. Beh, una è una, semplicemente un'osservazione, no? Questa diciamo, questa liturgia ecclesiocentrica si viene bene fuori nella preghiera eucaristica quando si dice in unione con il nostro Papa, con il nostro Vescovo, con questo, con quello, con tutto il clero, il popolo. Tu hai detto, quindi il popolo è proprio l'ultima ruota che dovrebbe, il popolo di Dio dovrebbe essere tutto, no? Questo, vabbè, è solo un'osservazione così. Invece volevo dire, il fascino che stanno esercitando in modo enorme, ma dappertutto in tutto il mondo, queste filosofie orientali, no? Penso soprattutto al buddismo, che è una filosofia che ha avuto un grande successo, basta vedere il fiorire in tutti i posti di questi ashram, di questi luoghi. Ecco, io ho letto parecchio, mi sono anche provata a immergermi un pochino in questa cosa qua, ma non c'è paragone col messaggio di Gesù. Perché il messaggio di Gesù non ha più fascino così? Perché non hanno saputo comunicarlo altrettanto bene? Come mai quegli hanno, cioè, la gente parte, va a fare l'anno sabbatico in Tibet, roba del genere, e non va a Roma, insomma, a studiare, eccetera. Mi chiedo solo se sia proprio, a parte la difficoltà di comunicazione eccetera, ma si sia proprio creata una sorta di nausea da parte riguardo appunto a questa forma ecclesiocentrica, no? Clericale, diciamo così. Chiedo questo, ecco. Sì, è possibile, ma anche perché poi, come dire, si è realizzato un fenomeno paradossale, curioso, cioè giustamente il Vaticano II ha sollecitato la Chiesa ad una riqualificazione dell'appartenenza alla Chiesa stessa, una riqualificazione di tipo testimoniale, evangelico, no? Però non tenendo conto del fatto che proprio a motivo di secoli di ecclesiocentrismo, no? Dentro i confini della Chiesa ci stanno non soltanto coloro che si percepiscono effettivamente chiamati alla forma apostolica, no? Alla forma testimoniale della sequela di Gesù, ma ci stanno dentro tutti, in qualche modo, no? Ci sta dentro anche chi, come dicevo prima, non avverte di per sé una chiamata alla sequela, ma dimostra però una disponibilità all'ascolto e all'accoglienza, no, di Gesù Cristo, della sua iniziativa di salvezza. Ecco, questi che sono, a mio avviso, la gran parte di quelli che oggi risultano battezzati, fanno molta fatica a stare dentro una Chiesa che, come dicevo prima, a tutt'oggi è ancora tutta ruotante attorno alla forma del discepolato testimoniale. E dunque noi dobbiamo sempre ripartire da Adamo ed Eva, come si dice, no? Cioè, dobbiamo sempre rimotivare, ma con una fatica di Sisifo dovuta al fatto che noi per la maggior parte ci troviamo davanti a persone che cercano in realtà un'altra forma di rapporto con Gesù Cristo, non la forma del discepolato testimoniale. E finché non prenderemo coscienza di questo, a mio avviso non ne usciremo fuori da questo impasse, perché continueremo a dare da mangiare alle persone che ancora in qualche maniera incontriamo un cibo che non voglio. E questo è il punto. Questo è il punto. Avevo un'altra idea in testa, ma mi è scappata, ma la recupero. Quando parlavi dei laici, no? Noi a Murialdo non abbiamo il parroco e c'erano problemi a trovare un prete che venisse. Qualcuno ha detto, vabbè, facciamo la liturgia della parola. Il vescovo ha detto, non se ne parla, la liturgia della parola non può essere fatta. Allora i laici proprio non, neanche quando sono soli possono fare qualcosa a questo punto, proprio non c'è nessuna considerazione per i laici. Beh, lì adesso appunto io non saprei. Quello che ho detto anch'io, facciamo. Non saprei dare una valutazione su questo perché non conosco la situazione, però certo è sintomatico, no, del fatto che continua comunque ad essere alimentata una concezione di chiesa fondamentalmente clericocentrica. 15 giorni fa avevamo tra le letture proprio quella che diceva allontanami dalla tentazione, era l'occasione per dire il Padre Nostro lo vogliamo cambiare, abbiamo una lettura che oggi ci dice allontanaci dalla tentazione. No, neanche in quella domenica lì siamo riusciti a dire non ci indurre in tentazione. Se io fossi stato il vescovo, e grazie a Dio non lo sono, avrei detto è la domenica giusta per dire all'assemblea c'è scritto non abbandonarci, scusami, sì, non abbandonarci la tentazione. Questa era la, però neanche un passo grosso così non siamo riusciti. Ma perché? Perché? I vescovi stanno aspettando il nuovo messale. Sì, ma c'è la Bibbia, ma questa è quasi burocrazia, siamo a livello di conta più il nuovo messale, c'è la parola. Appunto, tutto è bloccato perché da anni stiamo aspettando il nuovo messale. Durante la messa. Aggiungo ancora questa. Tanto siamo nel gossip. Sì, perché stiamo aspettando da anni il nuovo messale? Che non fanno. Perché il Benedetto XVI ad un certo punto aveva espresso l'esigenza di modificare quel passaggio della preghiera di consacrazione in cui si dice appunto il corpo, il sangue dato sacrificio per tutti, no, per tutti. E invece secondo Benedetto XVI, a partire da una traduzione letteralistica, si sarebbe dovuto tradurre per molti, non per tutti ma per molti, ma perché effettivamente in greco è oi polloi, per i molti. Però notate questo, Benedetto XVI, quando ha espresso questa sua richiesta, questa sua esigenza, lo ha fatto attraverso una lettera in cui diceva letteralmente, appunto nel testo c'è per molti, e quindi noi di per sé nella preghiera di consacrazione dovremmo dire per molti. Tuttavia l'esegesi attuale ci ha mostrato che quel per molti in realtà indica tutti, perché è la contrapposizione tra i pochi e i molti. Questo è un tipico semitismo, no? I pochi e i molti sono i tutti, no? Ecco. Allora, diceva Benedetto XVI, noi dobbiamo cambiare il messale perché dobbiamo scrivere per molti. Poi però, voi preti, parroci, eccetera, dovrete fare delle catechesi per i vostri fedeli in cui spiegate che quel per molti in realtà vuol dire per tutti. Ecco, capite? Capite? Che avvitamento! Cioè questa è una lettera che non ho ricevuto io, cioè è una lettera che il Papa Benedetto XVI aveva mandato a tutti i vescovi, eccetera, eccetera. Quindi vedete che avvitamento mostruoso. E concludo solo, perché l'aneddoto è questo, stiamo appunto, questo messale tarda ad arrivare perché c'era questo impasse, cioè Benedetto XVI che si aspettava che si cambiasse la traduzione. Dall'altra parte Papa Francesco che invece è fermo nel mantenere tutti. Tanto è vero che nel discorso che aveva fatto al convegno di Firenze nel novembre 2015 aveva fatto un passaggio molto interessante. Ad un certo punto nel discorso stava leggendo, ha letto una espressione del tipo «la salvezza di Gesù Cristo che è per tutti». Alza gli occhi, guarda l'assemblea, dice «per tutti è, non per molti». No. Cioè, quindi è chiaro qual è la posizione di Francesco. E allora c'è stato tutto un lavoro di diplomazia ecclesiastica, no? Per mettere, finalmente adesso sembra che si sia giunti alla delibera, quindi rimane. Ci sarà per molti, rimane per molti. Scusate, rimane per tutti, rimane per tutti, e lì dentro dovrebbe esserci anche sto nuovo padre nuovo, che poi è la nuova traduzione più aderente. Che i francesi hanno adottato 5 certo, anni fa. Certo. Molte parrocchie già la usano. Sì, sì. Perché 2 anni fa, a messa della domenica, noi eravamo nei primi banchi. Acceria. Da parecchio tempo dicevamo il Padre Nostro secondo la nuova traduzione, che sulla Bibbia sono 12 anni che c'è qui. A fine messa, dopo che ha salutato tutti i fedeli, benedizione, compresa, ha detto: vorrei dire a quei signori, ci ha rimproverato davanti a tutti. La gente che dietro non aveva capito che diavolo avessimo detto, quando uscivamo fuori ci guardavano come delle bestie. degli eretici. Veramente. Ma perché io ho fatto fatica ad andare via senza andare là in sacrestia a dire. Poi siccome sono un po' quando fumino di fronte a certe certe situazioni a volte non riesco a fermarmi, ho lasciato perdere, ho contato fino a 2040 e poi sono andato a casa. L'unica davanti a tutti quanti ci ha rimproverato, ma che rimprovero, l'unica è scuotere la polvere dai calzari. Scuotere l'amoreste sotto surgere. C'era forse Meo, volevi dire qualcosa? No, volevo solo dire che noi italiani siamo proprio gli ultimi. In Brasile negli anni '80, quando sono andato io, certo. Non diciamo scaire, intendo, non lasciarci cadere, che è molto più. Abbandonarci vuol dire che già ci siamo. Ma sono 40 anni. E io so che quella traduzione lì già era da 20 anni così. Non solo in Brasile, quando celebrava Don Walter Michelino San Giacomo, sì. Facendo il conto dell'età dei miei figli, credo sui 35 anni fa, noi recitavamo il Padre Nostro così, e io ho continuato da allora, tanto in genere non è che uno si mette a urlare, e io da allora speriamo si identifico di più, cioè abbiamo bypassato tutte le... Ma in certe parrocchie lo dicono, no. Perché no, non si può. Ma no, che in alcune parrocchie lo dicano, questo è probabile, possibile. Di per sé non sarebbe ancora lecito. Secondo la burocrazia. E così non c'è più nessuno come la condizione grossa. Ma la gente era ortodossa e cattolica nel 1050. Sì. È fondato su un'interpretazione di Maretti, del Padre Nostro Gesù, no, del credo. Del credo. Lo spirito che procede dal padre al figlio. Gli storici dicono che quello è il paravento dottrinale di un fenomeno, diciamo, politico-religioso che stava alla base, che poi ha portato, diciamo, loro non sopportano il primato del Papa. Quella è come dire, la goccia, no? La testa. Dietro, insomma, c'è qualcosa di più profondo in realtà. Io sono stata dal gossip in Bukovina. Sì. In Bukovina a maggio, e eravamo a visitare questi monasteri ortodossi. A un certo punto in una di queste chiese c'era un prete che parlava italiano, ha sentito che parlavamo italiano, si è avvicinato e ci fa: ah, voi siete italiani, il vostro papa che vuole avere il primato, cioè, ci ha proprio aggredito in vario modo, perché loro che credono, che vengono a raccontarci cos'è il credo, lo sappiamo noi, no? E questi che vogliono imporre il primato di un unico vescovo di Roma, mentre invece... E noi siamo stati zitti, però comunque c'è questo dente avvelenato. Ecco. Quindi la risposta alla questione della carenza dei sacerdoti che andavano a morire è quella che dicevo prima, cioè servono tutti i preti che avevamo 40 o 50 anni fa, secondo me no, non servono, ma non servono nella misura in cui c'è una valorizzazione della soggettività laicale, e quindi certo cambiare o morire, questo sono d'accordo. Anche perché era la parrocchia al servizio del parroco quando io ero bambino, non era il parroco al servizio della parrocchia. Il beneficio, il beneficio parrocchiale. Era il signore del paese. Sì, adesso appunto queste cose, grazie a Dio, si sono perse. Grazie a Dio si sono superate. Però... come dire, è una delle persone anziane, sì, più di si sono superate, nel senso che uno può anche avere la smania di autorità, ma quella autorità non è riconosciuta da nessuno, quindi capisci? Da pochi perlomeno, ecco, da pochi nostalgici, no? Quindi, perché le persone che sono contro Francesco nei paesi sono più numerose di quello che si pensi. Ma chi è il popolo sente una persona che ha un po' di autorità, segue quella, anche se le dà un po' fastidio, non riesce a capire questo autoritarismo, però se una persona che ha un minimo di autorevolezza e dice ah no, bisogna seguire la tradizione, questo popolo, allora io sto qua. Ma gli anziani, cercate un po' di ragionare, un po'. Che popolo i giovani, io ho 33 nipoti, di giovani non c'è neanche uno che appunto, si pone questo problema. No, i giovani i giovani spesso non ci sono già più, quindi non si pongono il problema perché sono già altrove. Torno, se volete, a una di queste domande scritte, che diceva così: tra quelli che ascoltano e mettono in pratica e quelli che ascoltano e non mettono in pratica, la differenza senta soprattutto nel mettere o non mettere in pratica. Entrambi ascoltano, c'è forse in effetti anche modo e modo di ascoltare. Si può esaminare meglio questa differenza? Una domanda secondo me interessante. Certo, la differenza la fa l'ascolto. No? Qui partirei da una considerazione molto antropologica. Noi oggi facciamo una fatica immane ad ascoltare. Cioè, siamo continuamente bombardati da input, da messaggi, no? E questo ci ha saturato la capacità di ascolto. Quando appunto tu sei immerso in una pluralità di messaggi, è chiaro che non, in qualche maniera per autodifenderti disattivi questa modalità, no? Quindi noi oggi viviamo il paradosso per cui siamo nella società, nella cultura della comunicazione totale, amplificata a dismisura dai social, no, dai social network, dove tutti comunichiamo, no? E con i problemi che sappiamo benissimo, no? Cioè, il fatto che a volte i social network diventano veramente una raccolta delle peggiori espressioni dell'umano, no? Ma perché tutti appunto si sentono immediatamente autorizzati a comunicare dentro un collettivo soliloquio, fondamentalmente, perché ognuno parla a se stesso e per se stesso, no? Allora, noi viviamo dentro una grande difficoltà di ascolto, e questo è un problema antropologico che ha una sua ricaduta, secondo me, molto forte sul piano della fede religiosa, no? Perché se, come dire, si indebolisce questa facoltà di ascolto, si perde quella dimensione dialogica della fede che dicevo prima, e che è qualificante, no? Perché la fede è il nome di una relazione, è il nome appunto della relazione tra l'uomo, la donna e Dio nella declinazione evangelica attraverso l'incontro e il rimanere in Gesù Cristo, nella fede di Gesù Cristo, no? E quindi la qualità dell'ascoltare è decisiva per la qualità dell'esperienza credente, no? E giustamente si fa notare come ascoltare sia qualcosa di diverso dal sentire, perché il sentire è una dinamica fondamentalmente passiva. Appunto, se si verifica un rumore nella stanza o fuori, io questo rumore lo sento, e magari mi distraggo, eccetera. Ascoltare invece certamente nasce anche qui da una passività, perché io ascolto qualcosa, una parola che mi raggiunge, no? Una comunicazione che mi raggiunge, però è una passività che sollecita poi un'attività, un'elaborazione, una ripresa, no? Perché ascoltare significa anche apertura, significa appropriazione, significa, come dicevamo stamattina, una trasformazione grazie all'incontro con l'altro, no? In piemontese scute. Scute, che è esattamente l'equivalente ebraico dello Shema. Shema Israel. È quell'ascolto che è lo scute piemontese, che significa un'apertura disponibile ad accogliere ciò che viene comunicato, ciò che viene partecipato, no? Ecco, quindi questa è, come dire, la grande questione. L'ascoltare e non mettere in pratica, in realtà, appunto, è dovuto al fatto che quello non è un autentico ascoltare, è un sentire che riduce la parola di Dio alla stregua delle tante parole, comunque dei tanti messaggi da cui possiamo essere bombardati, no? Mentre invece l'ascolto che genera la pratica della fede è quell'ascolto che di chi si lascia coinvolgere, di chi si lascia mettere in gioco, di chi si lascia sollecitare, no? Chi ha orecchie per intendere, intenda, dice Gesù, soprattutto dopo il racconto di una parabola, no? Ecco, avere orecchie per intendere significa esattamente attivare la modalità dell'ascolto, no? Superare il livello del puro sentire passivo, no? Per cui, come dicevo, questo è un aspetto certamente importante, e a mio avviso un'educazione dell'ascolto non può non passare attraverso una rivalorizzazione del silenzio. Ecco, anche qui oggi, a mio avviso, c'è una paura folle del silenzio, no? Se non c'è sempre qualcosa di sottofondo, ci si sente quasi persi, no? Ma il silenzio è la condizione fondamentale per poter ritrovare un rapporto sintonico con se stessi e quindi con l'altro, con la realtà. Quindi il digiuno da questo bombardamento di messaggi, no? da questa pletora di parole che ci raggiungono, è una condizione fondamentale per educare ad un ascolto che non sia solo passivo, ma appunto attiva appropriazione. Ecco. E non dovremmo avere paura anche di proporre questo ai ragazzi, agli adolescenti. Oggi appunto l'immagine tipica dell'adolescente è quello con gli auricolari, no? che gira assentendo appunto questa musica in un fondamentale isolamento, no? Cioè, a me fa sempre abbastanza impressione vedere questo. Mentre però i loro genitori, io che lavoro con i ragazzi, sono completamente attivi, palesemente attivi nei loro gruppi, quindi la relazione si instaura in mezzo a loro sempre digitale sul telefonino. Ecco perché io mi arrabbio quando si dice soltanto degli adolescenti, ecco, perché i loro genitori sono i primi a essere assenti da una relazione. Lo sottoscrivo. Qualcuno devono pure aver imparato. Ecco, infatti, no, ma no. Per dire, i giovani, però loro per fortuna hanno la possibilità, secondo me, di staccarsi. Invece l'adulto, che è veramente distratto, ha scoperto questa nuova forma di seduzione dell'altro attraverso, cioè essere riconosciuto attraverso queste cose, impegnare il tempo e tante altre cose che non sto a dire, però che sappiamo, no? Altro che silenzio, vuoti riempiti così, senza dare attenzione a questi ragazzi. Adesso non voglio fare una critica ai genitori, anche se dalla mattina alla sera percepisco questo fenomeno terribile dell'adulto, non il ragazzo. Il ragazzo è svelto, sa stare lì, sa fare altro, perché nasce già con questo cervello disposto a stare, staccare, poi se lo vediamo sempre. Beh, però ricordiamoci che tutti gli adulti, tutti noi siamo sempre collegati. No, questo sì, però appunto lo dicevo più che altro come un'immagine simbolo, no? Per me l'immagine simbolo è la domenica sera in pizzeria, la famigliola, padre e madre e i bambini che praticamente mangiano senza comunicare, sempre con o il cellulare o il tablet o il videogioco, quello che è, comunque sempre lì. Un giorno o l'altro nasceranno, secondo Darwin, soltanto più i pollici, questi quattro, tanto hanno bisogno delle altre dita, no? Ma questo ci dice, secondo me, anche una fame incredibile comunque di relazionalità, no? Perché comunque i social network, non a caso si chiamano social, no? Perché vengono comunque a corrispondere ad un bisogno di socializzazione, cioè di relazionalità. E il problema, secondo me, non è quello di demonizzarli a priori, ma è quello di gestirli, no? Quello di riuscire a gestirli. Socializzazioni sbagliate, certo, anche perché sono socializzazioni che non fanno eccessivamente bene né alla mente né a niente. Devono essere una cosa che a me dà molto fastidio quando vado a casa di qualcuno e non spengono il televisore. Tu sei lì che vai a trovare una persona per incontrarla, per parlare, e il televisore rimane acceso, tu non puoi parlare. È una forma di autodifesa, nei confronti dell'esporsi all'altro, no? Alla parola dell'altro. Ma cosa alternativa proprio? Se sono adulti. Anche se sono adulti, certo, ovviamente. Questo sì. Ah beh sì, ragazzi, ormai la televisione è un mezzo paleolitico. Sicuramente. Prego. Tu, nel tuo libro, a pagina 124, chi l'ha comprato lo prenda, ecco. Pagina 124, parli di fraternità, uno dei compiti pastorali più importanti della Chiesa oggi consiste nel formare i cristiani non solo a riconoscere e continuare il sensus fide, cioè il senso, ma anche il sensus regni, no? E dici che una delle caratteristiche di questo sensus regni è la fraternità eccedente, che deve assumere anche il volto della tenerezza. 124? Sì. Di qualcosa sulla tenerezza. Sì, Penso che fra 5 minuti dobbiamo concludere. No, 125. Fra 5 minuti dobbiamo concludere. Sì, sì. Ma tanto per avere una proporzione. Prima dico qualcosa sulla fraternità eccedente, sì. No? Perché è un aspetto che mi sta a cuore, no? Considero una dimensione fondamentale di questo entrare nel regno di cui parlavo stamattina. Come accennavo, la grande questione oggi è la scelta tra paura e fiducia, no? Tra la chiusura che nasce dalla paura e l'apertura che nasce dalla fiducia. La fiducia anzitutto nei confronti dell'altro, no? Dell'altro nella sua differenza, no? Nella sua irriducibilità. Ecco, allora l'esigenza di coltivare una dimensione di fraternità, no? Che ti riporti a dare fiducia all'altro, perché nella sua differenza, e attenzione, non dico nonostante la sua differenza, ma dico nella sua differenza, l'altro condivide con te l'appartenenza all'umano. Nella sua differenza, perché la differenza non è un ostacolo di per sé, non è una barriera. La differenza è semplicemente una strada da percorrere, no? È una soglia da attraversare, ma non è un muro. Ecco, oggi noi fatichiamo molto su questo. Perché appunto questo clima di paura, di risentimento, motivato anche da molti aspetti, adesso appunto qui non sto a sviscerare la cosa, ma tutto questo ci porta a faticare molto a percepire questo legame fraterno con l'altro, no? Che vuol dire riconoscere una fondamentale comune appartenenza all'umano che mi permette di leggere la differenza dell'altro come una variazione dell'umano e non come qualcosa di disumano o di antiumano che io dovrei combattere. E la fraternità eccedente appunto è quella che percepisce che al di là e al di sotto anche dei buoni rapporti di vicinato ci deve essere qualcosa di più che ci lega. Ci deve essere appunto, io dico, il rimando alla percezione di una promessa più grande che il volto dell'altro mi può trasmettere, mi può comunicare, una promessa più grande che dal punto di vista della fede, in particolare della fede cristiana, ha la sua fonte, ha la sua origine in Dio stesso, nel Padre di Gesù. Ecco, riconoscersi figli di uno stesso Padre dal punto di vista cristiano è la condizione fondamentale per riconoscere nell'altro il fratello. Lo diceva anche il Papa nel suo commento al Padre Nostro. Ecco, quindi il sensus regni oggi secondo me si gioca molto su questo coltivare la percezione di una fraternità eccedente perché non sono immediatamente io a disporne, no? È qualcosa che mi è dato per il fatto stesso di entrare nell'umano, nella condivisione dell'umano. Ora, un aspetto basilare, fondamentale di questa fraternità eccedente è proprio riscoprire questa dimensione della tenerezza, secondo me. La tenerezza, a mio avviso, è il volto positivo della misericordia. E mi spiego, spesso la misericordia nasce di fronte a qualcosa che manca nell'altro, no? A qualcosa che manca a livello, ad esempio, di giustizia, se l'altro ha compiuto una colpa nei miei confronti, no? Ha fatto qualcosa di ingiusto nei miei confronti, oppure qualcosa che manca a livello, che so io, fisico, una persona malata, no? Che mi suscita misericordia, no? Per la sua sofferenza, appunto, che può essere fisica o psicologica. Ecco. Quindi la misericordia è quel tipo di amore che si attiva nei confronti di qualcosa che manca nell'altro. Invece, secondo me, la tenerezza si accende per un eccesso di positività nell'altro, cioè perché l'altro in qualche maniera appunto mi ispira una immediata compartecipazione, no? Non so, io penso di fronte ad un bambino, no? Ad un neonato, è proprio l'eccesso di positività di quella vita nuova, no? che esplode in quel bambino, che ci rende teneri nei suoi confronti, perché la vogliamo custodire, no? vogliamo compiere dei gesti che permettono a quella positività di mantenersi, di tenersi in vita, di crescere. Quindi la tenerezza, secondo me, è il necessario completamento della misericordia, no? È vero che indubbiamente possiamo parlare di tenerezza anche nei confronti di una persona che sta soffrendo, no? Questo è indubbio, però a mio avviso, se ci pensiamo, il gesto di tenerezza nasce effettivamente dall'esperienza di un eccesso di positività o anche di gioia, no? La presenza di una persona mi investe di una particolare gioia e quindi io sono portato a compiere un gesto di tenerezza nei suoi confronti. Ecco. Questo è un ingrediente fondamentale, a mio avviso, di questa fraternità. Di cui, grazie. Di cui credo che sia ora di andare, sì, per l'Eucaristia. Ricorderemo Don Giorgi. Ringraziamo. Ringraziamo Duilio per questo terzo regalo bellissimo. Grazie. Prossimo anno. Grazie. Se